testa dura, attenzione a chi mi vuole bene. Ferito da dignità e sottomissione al mio istinto primordiale. Tu lasciami da solo e torno ad essere un animale. Uno di quelli che non sta mai solo e neanche buono a farsi del male. Lasciami da solo e torno ad essere un animale. Con le mie facce all'occasione e abilità nel recitare. Tu lasciami da solo, sai che sono un animale. Uno di quelli che non sta mai solo, neanche buono a farsi del male. Costruisco il mio castello di carta, aspetto il vento che lo fa crollare. Aspetto che arrivi, ma l'impazienza mi farà soffiare. Domani è già qua. Domani è già qua. Solo cambiare. Sopra il muro con la testa dura, rompe il muro e ti venga a cercare.